ho deciso di parlare invece delle solite consuete news di giornata o comunque quelle più importanti uscite nel corso appunto di questi giorni. Io inizierei subito dicendovi che principalmente non sono uscite grandi notizie in ambito videoludico, però dal punto di vista cinematografico sono uscite appunto una serie di notizie inerenti sia al cinema che ai videogiochi, o comunque le serie TV anche con i videogiochi. Nella giornata odierna, parliamo oggi dell'11 aprile, su Amazon Prime è possibile vedere una serie che appunto è basata su Fallout, e la serie appunto si chiama Fallout, serie di Bethesda, e le recensioni uscite nel corso di questi giorni sembrano essere per lo più molto positive. Io ho avuto modo di vedere per ora solamente la prima puntata e devo dirvi la verità, l'ho trovata effettivamente molto avvincente, molto interessante. Diciamo che la critica internazionale per il momento ha dato dei voti per lo più appunto positivi, il che non è scontato. Diciamo che ciò che ha colpito principalmente in linea di massima sono l'ambientazione, che ovviamente è post-apocalittica, tipica di tutta la serie di Fallout, oltre anche alla grande interpretazione degli attori. Tra questi, diciamo, chi è emerso principalmente è Walton Goggins nel ruolo del Ghoul, ma anche ovviamente la protagonista, di cui poi vi parlerò successivamente con un'altra notizia a lei dedicata. E soprattutto ad aver convinto principalmente sembrerebbe essere l'umorismo della serie, che principalmente anche un umore un po' un dark humor, diciamo, mischiato anche alla violenza e al gore e ai temi, diciamo, un po' oscuri presenti all'interno della serie, elementi che sono appunto stati particolarmente apprezzati dai critici internazionali, le cui recensioni appunto su portali come ad esempio Rotten Tomatoes attualmente danno addirittura una percentuale del 93% di gradimento e un 85% di gradimento dal pubblico, mentre il 93% è dei critici, mentre invece Metacritic è un po' più, come dire, schizzinosa, dando invece un 72% da parte della critica e un 6,5% addirittura da parte degli utenti. Staremo a vedere se magari nel corso del tempo questa serie acquisirà talmente successo da avere eventuali seguiti. Io purtroppo al momento non vi posso dire molto, anche perché ho visto solamente la prima puntata, quindi l'ho recuperata proprio questo pomeriggio, poco prima di venire qui in diretta. Però da quel che ho potuto vedere è molto avvincente, e quindi mi sento di consigliarla ai miei ascoltatori e alle mie ascoltatrici. E in onore di Fallout, per quanto potrà sembrare un po' particolare, però ho deciso di dedicargli questa canzone che mi ricordo faceva parte del trailer di Fallout 77, che ora gli ascoltatori o le ascoltatrici che probabilmente conosceranno questo gioco, spero non mi lincino, perché a quanto pare è uno tra i titoli più brutti di Fallout, però a me il trailer mi suscitò comunque molto piacere quando lo vidi, e quindi con Would It Be Nice dei Beach Boys prego la regia di mandare in onda il pezzo. Gonna make it better when we can say goodbye. E torniamo in diretta con A-Listen su Pirate Radio. Questo pezzo che avete appena sentito è Wouldn't It Be Nice dei Beach Boys. L'ho usato, come ho detto, per omaggiare principalmente Bethesda e Fallout, che, come dicevo, nella giornata di oggi, 11 aprile, sui portali di Amazon Prime è possibile visionare la serie dedicata proprio a questo brand di videogiochi. Ma parlando, come dicevo, dell'attrice che fa parte di Fallout, è emersa fuori anche una notizia inerente il seguito di una delle serie animate più attese nel corso di questi anni, ovvero parliamo di Arcane e della stagione 2. Ovviamente, diciamo, di Arcane e della seconda stagione si hanno pochissimi dettagli, e il dettaglio principale, diciamo, più riconosciuto è semplicemente il fatto che uscirà a novembre, e la storia sembrerebbe comunque essere incentrata, come al solito, diciamo, su Jinx. Poi invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a recuperarla per quanto breve, perché oltre ad essere molto profonda è molto molto bella. Questa serie è dedicata, per chi non lo conoscesse, al mondo e alla lore, diciamo, di League of Legends. È rintracciabile su Netflix come serie, e la doppiatrice ufficiale di Jinx, che è una dei personaggi, diciamo, presenti all'interno della serie e anche del videogioco, tale Ella Parnell, è anche la protagonista della serie di Fallout. E quindi un portale di notizie di videogiochi ha intervistato l'attrice, chiedendogli se ci fossero, diciamo, delle notizie o degli aggiornamenti in merito, appunto, alla seconda stagione di Arcane. Quello che è emerso è che, almeno stando a quello che ha detto l'attrice, è che il finale che la seconda stagione riserverà, nonostante non ci siano spoiler, attenzione, lo dico giusto per far star tranquilli i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, il finale di questa stagione sarà probabilmente molto drammatico. Ha rivelato l'attrice che addirittura ha pianto doppiando, appunto, il finale, e ha detto che crede che probabilmente le persone che vedranno questo finale piangeranno anche loro. Ha detto è devastante, nessuno starà bene dopo averlo visto. Queste testuali parole prese, appunto, da un noto sito di informazione. Quindi, insomma, a quanto pare il finale di stagione di questa seconda stagione, che ha, appunto, ribadiamo, come protagonista, come doppiatrice di Jinx, che è protagonista di Fallout, ha dichiarato sostanzialmente che ha doppiato le ultime parti di Arcane, della seconda stagione, dichiarando sostanzialmente che sarà una serie molto, molto triste, molto drammatica, e quindi i lavori sono stati ultimati e di conseguenza è stato confermato che appunto a novembre di quest'anno, del 2024, dovrebbe arrivare la seconda stagione di Arcane. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proposted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, thinking out of box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had a thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback. I ain't talking second pack it. Pack it up, I don't panic. Batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your thug. Everybody wants to be my enemy. Passando invece a un'altra notizia, sempre inerente al cinema e ai videogiochi, ed è l'ultima di giornata inerente al cinema e ai videogiochi, per la gioia, diciamo, degli amanti del genere horror, è stato confermato che Five Nights Freddy's, il film che è uscito questo, se non sbaglio, questo ottobre, ma comunque un film dedicato principalmente al franchise appunto di Five Nights Freddy's, che è un noto titolo horror con possiamo dire delle sorte di mascotte, degli animatronics che si animano nel corso della notte mentre tu, che fai il guardiano notturno di questa pizzeria, devi cercare di non essere ucciso sostanzialmente da queste creature questo giusto per fare un sunto per chi eventualmente non conosca bene il brand. Ad ogni modo, il secondo film di Five Nights Freddy's si farà, e è arrivata appunto una conferma ufficiale da parte dei produttori, che hanno anche indicato il periodo di uscita scelto per far uscire questo secondo film. A quanto pare Universal, durante il CinemaCon 2024, ha confermato che Five Nights at Freddy's 2 verrà pubblicato nelle sale cinematografiche nell'autunno del 2025. La notizia è stata comunicata da Jim Horn, che è il presidente della divisione appunto di Universal Picture, e la distribuzione, insomma, nelle sale è prevista sostanzialmente per l'autunno del 2025. Successivamente anche Blumhouse, tramite un tweet, ha confermato il fatto che appunto ci sarà un sequel di questo film e che arriverà presumibilmente appunto nell'autunno del 2025. Tutto ciò è probabilmente era abbastanza prevedibile a causa anche dell'enorme successo ottenuto dal film e quindi non, onestamente non ci stupisce il fatto che una seconda pellicola sia stata effettivamente commissionata per tempi brevi. Dunque non ci attende per vederla, non ci resta che attendere il prossimo anno e speriamo che il film sia degno di nota, anche perché il precedente, per quanto abbia avuto un successo commerciale, la critica non è che proprio l'abbia particolarmente apprezzato, ma questo è un altro discorso. Passerei invece a due notizie proprio flash. Innanzitutto, anche se Epic Games non ci paga, nessuno ci paga in questo spazio commerciale, però Mai mai volessero. volessero, perché no? Però comunque nessuno ci paga, io ci tengo comunque a ribadire ai miei ascoltatori che essendo il giovedì puntualmente sulla piattaforma Epic Games è possibile ricevere in omaggio un gioco. La settimana scorsa era disponibile, mi pare, Thief e The Other Wars, di cui vi avevo parlato appunto qualche puntata fa. Il gioco gratis disponibile invece per questa settimana è Ghost Runner. Quindi invito appunto gli ascoltatori e le ascoltatrici a scaricarlo qualora vogliano appunto approfittare di questa situazione. Tanto ogni settimana si aggiorna e io ogni settimana vi starò a dire quali saranno eventualmente i giochi disponibili gratuitamente, senza dover sborsare appunto soldi per giocare. E detto ciò, sempre nello store di Epic ho avuto modo comunque di vedere anche l'uscita di un gioco che però uscirà fra molto tempo e sembra essere un gioco tra l'altro molto interessante. Parlo di Star Wars Outlast, un titolo tie-in previsto in uscita per il 30 agosto. Questo gioco sarà fatto da Ubisoft. E le premesse sembrano essere molto interessanti perché effettivamente c'è questo mondo aperto nello stile appunto di Star Wars, dove anzi, la protagonista può fare delle scelte, ma soprattutto da quello che è emerso, principalmente lei è una criminale, quindi rientri in un mondo un po' particolare. Diciamo, Game Informer ha avuto la fortuna di poterci mettere le mani sopra e i giudizi di questa testata in merito al provato esclusivo di Star Wars Outlaw sembrano essere estremamente positivi. E infatti ciò non fa che gonfiare il mio interesse per quando uscirà, sperando che non sia una bomba di giga come purtroppo ultimamente le ultime produzioni di videogiochi sono, però comunque sembra, diciamo, Game Informer, che ha avuto la fortuna di poter provare in anteprima appunto questo titolo, che ribadiamo uscirà il 30 agosto su PC, PS5, Xbox Series X ed S. E ha avuto insomma la fortuna di provarlo e di avere appunto delle impressioni molto positive. Gli elementi centrali del gameplay sono appunto basate su un sistema di reputazione, a quanto pare, che la protagonista potrà farsi tramite appunto le azioni che tu andrai a svolgere, perché letteralmente, come ho detto, la protagonista è tipo, almeno apparentemente sembrerebbe essere una criminale, quindi a seconda di come ti comporti, tu ti puoi fare delle amicizie, almeno stando a quanto dice il sito, da quel che si è potuto vedere. ti potrai accomodare, insomma, con dei clan particolari. Quindi sarà un'esperienza di gioco molto ambiziosa, con una protagonista fuorilegge sullo sfondo, diciamo, di un universo basato su Star Wars. Io direi che le premesse sembrano più che ottime. Però per tutte queste premesse ottime c'è anche una notizia potenzialmente negativa. Purtroppo è una tendenza, diciamo, degli studi di sviluppo, ma è una tendenza abbastanza recente. Molti grandi studi di sviluppo, compreso appunto Ubisoft, hanno deciso di tagliare, stando alle ultime notizie, il doppiaggio del videogioco in italiano su questo titolo. E non è la prima volta che Ubisoft decide appunto di tagliare il doppiaggio italiano da un gioco a cui lei appunto tende a far uscire questi titoli. Parliamo ad esempio di Far Cry 6, Avatar Frontiers of Pandora, e ora a quanto pare anche Star Wars Outlaw probabilmente non avrà un doppiaggio. È un peccato, principalmente perché comunque abbiamo in Italia degli ottimi doppiatori. È ingiusto che una fetta di mercato, per quanto possa essere piccola, perché l'Italia a livello di rilevanza, diciamo, videoludica sta crescendo, però non è ancora così importante, e di conseguenza i grandi studi di sviluppo, quando fanno i loro piani di gioco per far uscire appunto un gioco AAA, quindi diciamo di grande spessore, purtroppo nel taglio dei costi, tra le varie cose, c'è anche il doppiaggio, e il doppiaggio italiano, proprio perché purtroppo attualmente non risultiamo così rilevanti, le aziende tendono a farlo. Ovviamente parliamo del doppiaggio in italiano, ciò non significa che il gioco non sarà localizzato in italiano, quindi con i sottotitoli, probabilmente li avrà, però purtroppo per chi ambisce a giocare certi giochi sentendo appunto la propria lingua nel gioco, non potrà essere accontentato, perché a quanto pare appunto delle scelte di mercato influiscono sul gioco stesso, e quindi le scelte di marketing di alcune aziende purtroppo possono influire anche negativamente da questo ambito. No, io perlomeno spero che magari questa tendenza possa in qualche modo anche decadere. Per carità, un gioco in lingua originale è sicuramente un grande pregio. Io sono il primo che si vede i film in lingua originale, ma vedo anche i film doppiati, logicamente. E quindi troverei giusto che ci sia un buon equilibrio tra entrambi. Ma prima di passare all'argomento di giornata, io vorrei passare un pezzo musicale. Perdonatemi, la puntata di oggi non sarà con pezzi musicali inerenti ai videogiochi, ma sarà inerente principalmente al contesto di cui poi andremo a parlare, in questo caso la storia del videogioco. Quindi vi metto un pezzo musicale preso direttamente dagli anni 60 e dopo vi parlerò, scusate lo starnuto, vi parlerò della storia dei videogiochi. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. E ritorniamo in diretta. Allora, l'argomento di giornata, che non sarà solamente di questa giornata, premetto subito, è la storia del videogioco. Il videogioco ha una lunghissima storia che raccontarla onestamente in un'ora di puntata penso purtroppo possa risultare molto difficile. Di conseguenza cercherò di raccontarvi nella puntata odierna gli inizi, gli albori del appunto del mondo dei videogiochi, dalla creazione proprio della prima macchina fino ad arrivare magari alle prime console, tra l'inizio e la fine, che è la fine degli anni 70. Molti si saranno chiesti, ma il videogioco da dove potrà essere mai emerso? Quali saranno gli anni principali in cui appunto il videogioco ha avuto grande rilevanza e importanza a livello storico? Ebbene, potrà sembrare molto strano, però il primo esemplare, diciamo, di videogioco vero e proprio risulta essere nato agli inizi degli anni 50, più precisamente nel 1951, e il primo esperimento di gioco elettronico lo dobbiamo a una grande impresa, la britannica Ferranti International PLC, che nel corso di un festival, ovvero il Festival of Britain del 1951, nella Exhibition of Science of South Kensington, scusate la pronuncia inglese tremenda, per dimostrare al pubblico le potenzialità dei suoi nuovi computer digitali, porta una sorta di prototipo di macchine dall'intelligenza particolare, appunto. Questo prototipo di macchine viene chiamato Nimrod, e sono espressamente costruite con il solo scopo di riprodurre un antico gioco di logica matematica che veniva chiamato appunto NIM. E in questo gioco due avversari devono rimuovere a turno uno o più oggetti da un solo di diversi gruppi. Vince l'obiettivo è che chi vince praticamente l'ultimo che rimuove l'ultimo oggetto. Di questo NIM elettronico, per simulare appunto questo simpatico gioco matematico, gli oggetti vengono rappresentati da alcune luci da spegnere, e quindi questo viene progettato sostanzialmente questo computer per sfidare un essere umano. Se si vuole, volendo, questo Nimrod è possibile trovarlo addirittura a un museo del videogioco presente a Berlino. Comunque la rappresentazione di questo primissimo esemplare molto primitivo di videogioco viene messo a disposizione non per uno scopo ludico, né tantomeno per uno scopo commerciale, ma lo scopo principale è uno scopo di intrattenimento. E per capire anche semplicemente la potenza che e il potenziale che queste macchine potevano in qualche modo richiamare l'attenzione appunto del pubblico. Tuttavia, qualche anno più avanti, un tale che si chiama Alexander Douglas, che anche lui è un dottorando inglese dell'Università di Cambridge, riesce a realizzare un primo, diciamo, videogioco elettronico rappresentato, diciamo, graficamente su appunto uno schermo e non appunto tramite un macchinario. Il gioco in questione viene chiamato OXO ed è una versione del TRIS. Per gli americani è noto più come tic-tac-toe, per gli inglesi invece è noto come Notes and Crosses. E quindi viene creato questo videogioco, e ciò viene creato perché faceva parte di una tesi di questo studioso inglese Douglas sull'interazione tra uomo e computer. Viene sviluppato su un particolare elaboratore di dati e rimane sostanzialmente bloccato a Cambridge perché, diciamo, il computer in cui viene sviluppato questo software non viene utilizzato in altri luoghi. È importante ricordare che sempre intorno a quegli anni vengono realizzati anche dei tentativi sostanzialmente di interazione appunto tra macchina e uomo, con ad esempio dei giochi inerenti agli scacchi e degli algoritmi appunto inerenti ad essi. Ma se vi parlo appunto di videogiochi, la cosa principale, diciamo, uno tra i titoli che probabilmente viene alla mente degli ascoltatori, diciamo, un po' più anzianotti, è il discorso che molte delle simulazioni delle prime generazioni di videogiochi centravano principalmente sulla simulazione sportiva, per quanto molto primitiva, del tennis e del ping pong. Dunque, non è possibile, diciamo, citare un grandissimo studioso, nonché genio, diciamo, contemporaneo per quanto riguarda appunto la storia del videogioco. Parliamo di William Higginbotham, che è stato uno, tra l'altro, dei membri che svilupparono purtroppo la prima bomba atomica, ma lavorava in un centro scientifico, e diciamo che per evitare che i visitatori che venivano in quel centro si potessero annoiare, gli venne un'idea alquanto particolare, ovvero di chiedere, anche grazie all'aiuto di un suo collega, tale Robert Dvorak, di sviluppare un simulatore di tennis su un computer analogico, un modello che si chiama Donnell Model 30, e il tutto utilizzando la cosa particolare, utilizzando un oscilloscopio come schermo. La grafica ovviamente era molto, diciamo, rudimentale, e non erano rappresentati in nessun modo i tennisti e i giocatori, e non era previsto neanche, diciamo, un punteggio o qualsiasi altro, diciamo, dettaglio tecnico, oltre al fatto cioè le uniche cose presenti per questa simulazione appunto del gioco del tennis si basava principalmente solamente sul fatto che c'era una rete e un pallino, una sorta di appunto di puntino che rimbalzava realisticamente da un punto dello schermo all'altro, simulando tra l'altro le leggi della fisica, e aveva anche un primitivissimo effetto sonoro. E tutto ciò era possibile dare, diciamo, delle racchettate per spostare appunto la pallina da un punto a un altro, attraverso l'utilizzo di un controller analogico in alluminio dotato di un pulsante appunto per colpire la palla e una manopola per aggiustare poi le angolature del tiro. Il gioco in questione si chiamava Tennis for Two ed è stato appunto uno tra i primissimi, diciamo, tra i primissimi videogiochi creati. Diventò talmente interessante da risultare un'attrazione e vennero, insomma, diversi, diciamo, curiosi a vedere appunto questo primo modello di videogioco. Parliamo comunque del 1958, quindi veramente un'altra epoca, e sinceramente parlarne mi mette anche una certa emozione, perché mi sembra veramente così assurdo pensare come si sia passati appunto da un'epoca così antica a un'epoca, diciamo, così moderna, come si sia evoluta nel corso del tempo il videogioco. Io direi, vi passo un pezzo musicale, perdonatevi, come ho già detto, questa puntata non avrà pezzi musicali inerenti ai videogiochi, ma come ho detto, i primi videogiochi non presentavano grandi colonne sonore o grandi musiche, quindi ho pensato che per il bene di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici forse fosse meglio sentire pezzi magari vicini a quegli anni lì. E di conseguenza vi metterò un pezzo che mi mette sempre allegria sentirlo. E torniamo in diretta. Allora, come avrete potuto intuire, la musica fa, diciamo, è un contesto più che altro per far capire in che periodo storico ci troviamo. E in questo caso siamo nel pieno degli anni 60, dopo avervi raccontato appunto di Tennis for Two. Mi sembra giusto e doveroso fare un piccolo salto temporale e passare al 1961. In questo periodo storico negli Stati Uniti si formano, diciamo, dei gruppi di studenti, di sviluppatori che daranno vita a quella che possiamo definire anche la moderna game industry, nonché anche al fenomeno appunto stesso del videogioco, ma ci si arriverà appunto gradualmente. Voi, come dicevo, vi immaginatevi appunto di trovarvi in un contesto storico dove americano, in cui magari vi trovate in un college di quelli americani con le confraternite e gruppi dai nomi strani. Mi viene in mente, ad esempio, Animal House con vabbè, Animal House. Ora, all'interno di queste confraternite, come dicevo, si sono formati dei gruppi di famosi sviluppatori che, lavorando con i computer dell'epoca, si divertivano e si dilettavano a creare prodotti, appunto, videoludici, diciamo molto, appunto, primitivi. In questo caso parliamo del MIT, che sarebbe per Institute of Massachusetts of Technology, e da quegli studi lì, cioè, da quell'università lì, con l'avvento di un computer particolare, in questo caso parliamo del mainframe DEC PDP-1, che era appunto un computer dotato di uno schermo con output visivo. Un gruppo di studenti formati da Steve Russell, Martin Graetz, Wayne Witten, decide di programmare su questo computer, il famoso PDP-1, un gioco interattivo, questa volta ispirato a un concetto diverso dalla simulazione dei titoli sportivi del tennis e ping pong, ma basato su quei fumetti o quei libri di fantascienza che in quel periodo andavano per la maggiore. Da queste brillanti menti arriva appunto la creazione di Space War, un gioco che si poteva giocare con dei controller, che sono dispositivi appunto che forniscono l'input al videogioco per fare appunto determinate azioni. E semplicemente questo videogioco proponeva un duello spaziale tra due astronavi dalla forma diversa, la cui particolarità era che potevano roteare su loro stessi e azionare, diciamo, dei propulsori per muoversi in avanti, sparare missili e entrare nell'iperspazio, insomma, veramente delle cose che per l'epoca erano avanguardistiche, specialmente lavorando su appunto uno schermo di un computer così, diciamo, particolare e così datato. Nasce dunque questo Space War, che può essere definito anche uno tra i primi titoli, diciamo, multiplayer. Il gameplay, che è un termine il quale intende, diciamo, il complesso delle regole di gioco, era appunto basato, come dicevo, sul girare, sparare, muoversi e distruggere, abbattere possibilmente le navicelle avversarie. Alcuni degli sviluppatori originali del titolo suggerirono a Russell di aggiungere delle meccaniche un po' più specifiche, come ad esempio il fatto che magari lanciando un razzo, il razzo eseguiva esattamente una certa traiettoria per raggiungere subito l'avversario e abbatterlo, ma questo faceva del divertimento di questo gioco, diciamo, non dava particolare sfogo al fattore divertimento, al fattore casualità dovuto appunto allo spostamento pure molto primitivo delle navicelle. Quindi alla fine il gioco rimase rimase strutturato sostanzialmente come fu pensato originalmente e venne, diciamo, portato su più istituti, rendendo poi il gioco noto a diverse persone influenti del settore, tra cui appunto un certo Nolan Bushnell, che analizzeremo però più avanti. Ovviamente il videogioco poi si è evoluto anche in altri generi e sottogeneri. È impossibile non poter citare ad esempio Hammurabi, che si tratta sostanzialmente del primo gioco gestionale nato appunto in quel periodo storico, e in cui sostanzialmente era un simulatore puramente testuale, perché avevi appunto una tastiera a cui davi dei comandi e sostanzialmente gestivi una popolazione e dovevi appunto gestire l'economia di un regno attraverso dei semplici input numerici in cui compravi e vendevi terre, grano e risorse da destinare poi alla popolazione, e alla fine poi insomma il gioco capiva più o meno gli input che tu scrivevi e gli davi per darti appunto una soluzione generica. Ciò ha poi ispirato nel corso degli anni tantissime altre creazioni e tantissime altre avventure basate magari sul testo o simili, creando poi anche appunto questo genere, che era il genere degli strategici gestionali, che poi magari vedremo più avanti con la serie di Civilization e tanti altri. E dagli anni 60 però passiamo agli anni 70. Purtroppo, ragazzi, il tempo di trasmissione è limitato, nel senso che purtroppo in un'ora di trasmissione non potrò, come ho già detto, raccontarvi tutta la storia dei videogiochi. Cercherò in questo breve arco di tempo di raccontarvi almeno una parte, poi se non dovessimo riuscire a concludere tutto l'arco temporale della storia dei videogiochi, non vi preoccupate, perché ci saranno appunto delle specifiche puntate in cui andrò ancora di più nel dettaglio, nello spiegare appunto l'evoluzione proprio del gaming. Comunque, passiamo dagli anni 60 agli anni 70, e negli anni 70 ci sono cioè un'evoluzione molto grande del settore del videogioco, che parte prima dei semplici computer, magari passando poi per dei cabinati, perché poi comunque la gente è abituata a pensare al videogioco come cabinato, quindi come sala giochi, e dove nella sala giochi, spendendo le monete, giocavi appunto a determinati giochi come il Pong, per dire, ma ci arriveremo, come ho detto, con molta calma, perché prima di tutto questo c'è stato un precursore che è stato un genio per quanto riguarda appunto la game industry. Parliamo purtroppo prima di Raphael Baer e poi del già citato Nolan Bushnell, che, per chi non lo sapesse, è stato il creatore di Atari, che è stata, penso, una delle console più, diciamo, famose nel corso degli anni 80, anche se poi da Atari succederà un fatto altrettanto storico con la prima grande crisi dei videogiochi, ma ne parleremo appunto in una puntata successiva dagli anni 80 in poi. Parliamo invece di Ralph Baer. Chi è Ralph Baer? Sostanzialmente questo nome ingiustamente sconosciuto ai più, ma è stata una figura importantissima, perché è stato un ingegnere che, sfruttando le sue conoscenze, lui era tedesco, è scappato dalla Germania nazista 10 anni prima appunto che si arrivasse il nazismo in Germania, per formarsi poi in America, e in America, con le sue doti appunto ingegneristiche, ha iniziato a capire bene come funzionavano i tubi catodici, ma anche progetti militari e tante altre cose. Con la sua esperienza appunto con i tubi catodici, questo ingegnere ebbe l'idea di sperimentare per la prima volta cosa volesse dire creare un gioco, un videogioco, non tanto per le masse intese tipo appunto come un cabinato da provare appunto in una sala giochi, perché comunque i cabinati non venivano ben visti dalla maggior parte delle persone, ma ci arriveremo anche lì con calma spiegando i motivi specifici, ma di creare appunto un videogioco che fosse disponibile per le case di tutti i videogiocatori. Questo videogioco doveva essere ispirato appunto al famoso Tennis for Two di cui vi ho parlato prima, ovvero la famosa simulazione sportiva del tennis. Ma il caso ha voluto che, lavorando appunto su questo progetto, il signor Baer, trovando un accordo con la Magnavox, che era un'industria specializzata nella produzione di televisori, creò appunto la primissima console da gaming, chiamata appunto Magnavox Odyssey. Siamo nel 1972 e nasce appunto la prima console chiamata Magnavox Odyssey, che all'interno conteneva appunto il gioco appunto del tennis, chiamato poi Pong. E dunque, voi vi starete chiedendo, ma quindi che cosa ha avuto di così rivoluzionario questo Magnavox Odyssey? Oltre ad essere appunto la prima console ad arrivare sul mercato, la cosa rivoluzionaria era appunto che potevi giocare con un qualsiasi televisore dell'epoca, e parliamo appunto degli anni 70, appunto a questo videogioco. Il problema però qual era? Il problema era che la gente era convinta che il marketing di questo Magnavox Odyssey fosse, siccome la Magnavox, come ho detto, era famosa per produrre appunto televisori, è un po' come che all'epoca magari la Sony produceva appunto televisori, anche se la Sony non c'era, però comunque per intenderci, la gente scambiò questo fattore della parola Magnavox, scambiò il fatto che queste console, le Magnavox Odyssey, fossero disponibili e funzionanti solo su televisori Magnavox e non su tutti gli altri televisori. E questo fu un danno economico gigantesco. Perché? Perché appunto il signor Baer aveva trovato anche accordi con rivenditori di tecnologie appunto con televisori e simili. E purtroppo i compratori, cioè gli utenti, per quanto interessati o comunque affascinati dalla novità, scambiando il fatto che la Magnavox, cioè che ci fosse il nome Magnavox sopra, ma era il Magnavox Odyssey, non comprarono sostanzialmente in massa il prodotto perché pensavano che funzionasse solo su quella tipologia di televisori. Questo fu un gravissimo errore di marketing che costò tanto a Bayer, ma fu invece di lezione per un altro, per una persona molto più furba e molto più maligna da un certo punto di vista, mi verrebbe da dire, che fu appunto Nolan Bushnell. E purtroppo, come ho detto, la puntata siamo agli sgoccioli, quindi non riuscirò a parlarvi di Nolan Bushnell, però vi prometto che di lui e di tutta la storia successiva ve ne parlerò nelle prossime puntate. Nolan Bushnell comunque è stato uno tra i più grandi, diciamo, interpreti nel mondo del gaming, e ha creato appunto un fenomeno come Atari, e quindi purtroppo ve ne dovrò parlare dalla prossima settimana. Vi ringrazio per essere rimasti comunque all'ascolto, come al solito, fino a qui. Vi rinnovo i miei ringraziamenti, rinnovo i ringraziamenti al Brancaleone che ci ospita. E niente, vi invito ad ascoltarci la settimana prossima. Grazie di tutto. e ci aggiorniamo alla prossima settimana.